Serata del verdetto inappellabile è arrivata, l'attesa sta per finire. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Credo la migliore emozione di una serata da dimenticare, quella della prima semifinale di Champions League, una partita da coprirsi gli occhi, finita 0-0 tra City e Real Madrid. Pierluigi Pardo l'ha raccontata e noi l'abbiamo seguito, ma non è successo proprio niente. Ciao Pierluigi. Beh, sei un po' drastico, ha fatto abbastanza schifo, sono d'accordo, ma ha fatto abbastanza schifo. Calcio che ci siano le partite abbastanza bloccate, molto bloccate, quindi bruttine. Primo tempo veramente orribile, secondo tempo un pochino meglio con Real che poteva anche meritare la vittoria, perché comunque 4-5 occasioni delle ha costruite, forse 3, va più che 4-5, e ha dato la sensazione di essere migliore, considerata anche l'assenza di Cristiano Ronaldo. Il City ha perso Silva, e era senza Yaya Touré, ma insomma secondo me il Real è una situazione di forza maggiore, sicuramente insomma ci aspettiamo uno spettacolo diverso. È abbastanza paradossale perché la semifinale sulla carta bloccata, quella diciamo solo quella più tattica, sembrava l'altra, no? Quella di stasera tra Bayern Monaco e il Ciolo, con i pullman davanti alle porte, tutte queste cose qui. Però io poi arrivo anche a dirti una cosa, che alla fine ieri sarà brutta, quindi ieri veramente è il caso, è l'eccezione che conferma la regola, però le partite equilibrate mi piacciono, quindi no, quelle piacciono a tutti, Pier, ma hai un pronostico su questa, cioè Real Madrid ieri sera si è portato a casa un pezzo del Duomo di Milano, inteso come sede della finale? Beh, sì, insomma sicuramente ha un vantaggio, però non è un vantaggio così clamoroso, 0-0 è un risultato tricky, come dicono in Inghilterra, e quindi è un risultato che ti può ingannare, non aver segnato col fuori casa non è una grande notizia. È chiaro che molto dipende anche dal recupero o meno di Cristiano Ronaldo, perché il Real dal Bernabeu con Cristiano Ronaldo è una cosa, con Lucas Vázquez che se insomma è qualcosa di diverso. Sicuramente il Real è favorito, però io ti dico, adesso dando un po' di numeri, se recupera Cristiano in buone condizioni è 70-30, se non recupera è secondo me 60-40, se non 55-45, quindi sì. Secondo me non è un dettaglio, eh. E il fatto che non abbia giocato ieri sera, considerato quanta voglia lui abbia di giocare anche le partite inutili, figuriamoci quelle importantissime, secondo me racconta molto sul fatto che le condizioni non sono buonissime, non sono il massimo. Allora, secondo me oggi è più no che sì la partita di ritorno. Allora, la notizia che sta rimbalzando in queste ore, la notizia della giornata, è il Milan ceduto ad Alibaba, ai cinesi di Alibaba. Poi Marco Verinazzo verso le tra una mezz'oretta ci racconta tutto. Come faccio a sentirsi dall'aereo? Com'è? Come faccio? Io mi devo imbarcare dall'aereo. Che devi fare? Voli. Poi ti racconto, poi mi chiami, ti racconto cosa ha detto. Cosa ha detto Beninazzo? Poi la Pellegrini porta bandiera a Rio, siete d'accordo? Sì, no, classico sondaggione 80024 0024. E poi avremo, dopo Beninazzo, dopo le 15, avremo Danilo Di Luca che ieri, insomma, presentando il libro che ha scritto, Bestie da Vittoria, ha detto delle cose fortissime su di lui, sul ciclismo, su quel mondo, su Pantani, eccetera. Avremo il nostro ospite più tardi, ma intanto torniamo alla semifinale di ieri sera per una delle emozioni principali, cioè Zidane che ha di nuovo rotto i pantaloni e Ferrara ha un consiglio per lui. Ne approfitto per dirgli, se domani mattina mi chiama, gli consiglio io un sarto napoletano, un ottimo sarto napoletano, affinché insomma quei pantaloni non si strappino più. Lo so. Ah, mi sente? Un disastro, è un disastro. Ah, pensavo che non mi sentisse. Siamo riportato noi. Zizou, chiamami, ti consiglio un sarto napoletano. Ma è due volte che ti rompi i pantaloni, Zizou. Una volta era la destra, adesso la sinistra. Sì, infatti. Vabbè, pantaloni di Zidane a parte, glieli faremo di De Fero, come dice Pardo a Roma. C'è anche Zidane che parla dell'assenza di Cristiano Ronaldo. Io dico che sempre di sì, meglio che stia in campo con noi, però alla fine quello che ha giocato l'ha fatto anche bene. E Cristiano è per quello che è il mio giocatore in campo e nel mondo, quindi sempre lo voglio in campo, però oggi non ho potuto farlo e gli altri hanno giocato bene, quello che ha giocato sul posto con Luca Vasquez ha fatto benissimo. Guarda, è ovvio che vedendo questa partita ti viene in mente la Juventus e quanto si staranno rosicando mentre nuotano nello champagne per lo scudetto. Sì, sì, questo è un tema che abbiamo lungamente affrontato, mi sembra che mai come quest'anno. Ma a maggior ragione, no? Sì, cioè ogni tanto nascono delle Champions in cui non c'è una squadra dominatrice, insomma qualche anno fa abbiamo visto una finale Porto-Monaco che è quella che ha aperto ufficialmente la saga di Mourinho, ci sono state finali deboli, finali alternative o comunque squadre non di primissima fascia, lo stesso di Villarreal di Pellegrini che pure giocava un grande calcio per arrivare alla finale contro l'Arsenal nel 2006, cioè ci sono delle squadre che beccano delle annate, ma questo ovviamente succede quando le grandi sono in difficoltà e questa è una Champions giocabile, al di là del fatto che io penso che la Juve sia realmente vicina alle grandissime d'Europa, ma poi secondo me quest'anno le grandissime d'Europa nessuna di queste sta benissimo. Il Bayern ha avuto le sue difficoltà sia con la Juve che anche successivamente col Benfica, insomma non è stato brillantissimo per passare il turno. L'Atletico Madrid ha fatto l'impresa contro il Barcellona, quindi la squadra che sembrava più forte di tutto è già fuori. Sì. Il Real sappiamo che ha passato i suoi problemini con il Wolfsburg e anche con la Roma non era stata comunque una squadra perfetta, quindi San Marino secondo me c'è, però insomma è qua passata, adesso la Juve ha altro da festeggiare, ha una finale di Coppa Italia da preparare e soprattutto ha un futuro. Altro cui pensare, insomma. Delle basi molto solide, però certamente poteva essere l'anno buono, in grazie attorno. Ciao Pierluigi, buon volo. Ciao ragazzi. Ciao, un abbraccione. Tu mandami comunque dei WhatsApp. Tu stai tranquillo che tutto il resto. Stai tranquillo che ci penso io, ci pensiamo io e Di Luca. Allora, dopo il traffico ci sentiamo. Tutti convocati. Convocati. Il calcio è bello per questo, perché uno le dà di pensare e a me mi piace quel calcio che l'allenatore deve pensare ogni minuto del gioco, della partita, cosa deve fare e per questo io le do molto merito alle squadre che difendono bene, perché non è facile, come dicono tanti, saper difendere. Adesso non c'è argomento valido sulle mie idee, perché quando tu perdi 0-4 tu puoi dire quello che vuoi dire. Tu non ce l'hai ragione, ma io non posso cambiare quello che sento. E quello che sento è che mi piace giocare con il pallone, mi piace che tutti giochiamo avanti e indietro con quella per attaccare il più meglio possibile. La gente emozionata crea molta responsabilità anche tutto questo, perché lotti contro dei campioni veramente troppo forti come sono il Barcellona, il Madrid, il Bayern Munich, il Manchester City, però abbiamo un cuore grandissimo. E come abbiamo questo cuore, andiamo dietro di nostra illusione. So che in questo paese la condizione fisica è una delle cose più importanti. A me non mi c'entra un cazzo la condizione fisica. Per me non esiste la condizione fisica come una questione individuale. Quando tu ricevi un gol, la questione animica è quella importante. La sua è più alta e la nostra è più bassa. E gestire quelle minuti è la cosa difficoltà. Dunque, Guardiola contro il pullman che Simeone parcheggerà davanti alla sua porta, già in viaggio. Tanto io ricevo alcuni messaggi, scrivete voi che entrate oppure chiamate 800 24 00 24, il numero verde sempre aperto. Alibaba compra il Milan, i 40 ladroni trattano per la Juventus, scrive un simpatico ascoltatore. Milan venduto ad Alibaba, così al prossimo Milan-Juve ci sarà la grande sfida Alibaba e i 40 ladroni. Questo lo scrive Mario, che non è lo stesso ascoltatore, è un altro diverso. Intanto arrivano questi messaggi SMS o vari WhatsApp, così come arriva, ma poi ne parliamo con calma, il ciclo stile del Milan, la solita smentita che è nel cassetto o in un file di un qualunque computer di Fininvest ormai da decenni, e cioè non è vero niente, non, il Milan non si vende, non è in vendita, la quota di maggioranza non si tocca, eccetera eccetera. Si moltiplicano pure gli acquirenti, non solo Alibaba ma OnePoa, altro gruppo di telecomunicazioni molto importante. Insomma, poi facciamo chiarezza, ma sarà una chiarezza che abbiamo sentito diverse volte in tutto questo casino. Torniamo su quel pullman. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Sono di moda gli autobus a due piani, soprattutto quelli di Leicester. L'autobus a due piani invece questa sera verrà parcheggiato dal signor Simeone. Non è vero, non è vero. Questa non sera dire così, lo sai, sai perfettamente che è così. L'ha dichiarato ieri, andrà all'attacco stasera. Andrà all'attacco. Ma perché? Ha intenzioni suicide? Ma no, vedrai, secondo me io, a parte gli scherzi, ho detto, però non mi aspetto un Atletico, mi aspetto l'Atletico della prima mezz'ora al Camp Nou, perché se ti ricordi lì fino all'espulsione di Torres l'Atletico stava giocando con un, ovviamente non è il gioco d'attacco, non è che tengono palle, però andranno a pressare alto, metteranno una grande pressione al Barcellona, cioè come hanno fatto al Barcellona stasera al Bayern, e secondo me se la giocheranno in maniera un pochino più come si può dire, coraggiosa rispetto a quanto si possa pensare. Sì. Io su questo non ho grandi dubbi. Poi bisogna vedere, questa è una partita di 180 minuti anche ieri, non so, il Madrid. Hai visto quella schifezza di Manchester, sì. Sì, esatto, però perché? Perché lì il Madrid è spaventato, l'ha sentenato così, ha buttato via 45 minuti quando poteva tranquillamente vincere 2-3-0 contro un City che mi sembra una squadra priva di qualsiasi cosa, cioè City è una squadra modestissima, e Madrid se ne è accorto tardi, lì magari è mancato anche un po' Zidane, appunto, forse il fatto che Benzema comunque fosse infortunato l'hanno fatto giocare lo stesso e hanno buttato via 45 minuti, poi è uscito Silva, forse si sono resi conto. Beh, però sai, no? Anche quando ti manca il totem, no? L'uomo, il grande uomo, sì, da cui andare nelle partite difficili, nei momenti di difficoltà, eccetera, eccetera, ti viene a mancare il grande totem, è quasi fisiologico che, soprattutto se non sei squadra, come Real Madrid non è squadra, quasi fatale, ecco, che finisca così. Io ieri ho visti però un pochino più squadra del solito, nel secondo tempo, perché quando sono entrati, no, con Lucas Vázquez e Jesse, la squadra è molto migliorata e anche Bale partecipa molto di più rispetto a quello che poteva essere qualche mese fa, dove era un cavaliere solitario. Adesso lo vedo più partecipe del gioco. Secondo me stanno migliorando in questo aspetto. Però è chiaro che Ronaldo pesa tanto, e adesso vediamo, perché io qua non è per niente chiaro che questo possa giocare il ritorno. Cioè, no, infatti, ci diceva Pardo prima. Si parla di rottura, E lì io non ho capito Zidane. Zidane che dice è al 100%, vabbè, può essere pretattica, ma io non lo vedo Zidane così interessato a fare questa pretattica. E sicuramente ho dei dubbi su Ronaldo, ma sicuramente si sono sbagliati con Benzema. Benzema è la terza volta in un mese che esce alla fine del primo tempo e questi continuano a farlo giocare. Voglio dire, lì il medico per me non ci capisce molto, insomma. Il poveretto ieri sera non ha toccato palla, ma perché si vedeva che stava male. E com'è che l'hanno fatto giocare? Com'è che Zidane dice che sta al 100%. Tanto a proposito di percentuali, lo saprai già, ma la mamma di Cristiano Ronaldo, mentre continua ad arrivare smentite sul caso Berlusconi, poi ne parliamo, 80024 0024 sul caso cessione del Milan ai cinesi, la mamma di Cristiano Ronaldo ha dichiarato Cristiano sta all'80% e al ritorno giocherà. Ma può anche essere, però il problema è che ormai sono diventati talmente ermetici. Ieri non aveva una bella faccia Cristiano, parliamoci chiaro, al di là di tutto, no? In tribuna secondo me è la faccia di uno che è preoccupato, insomma. Lui ha detto, se era anche dichiarato, se era una finale avrei giocato, no? Vediamo, adesso sua madre dice che gioca all'80%, che gioca, se vediamo. Dice la mamma, bisogna credere alla mamma, che lo mette, sì, lo mette a letto tutte le sere, gli fa i massaggini, gli prepara le tisane. Se lo dice la mamma vuol dire che è vero. Non vorrai dare contro la mamma, No, Filippo. La Santa Dolores che tira su il piccolo Cristianito, no, Santa Donna, non le diamo colpa. Per questo dico, vediamo, interessante. Qua ti dico, sono arrivati a dire i giornalisti poi dopo, anche lì, col senno di poi, che addirittura Ronaldo ha viaggiato sapendo di non giocare. L'hanno detto dopo, però, perché prima tutti erano convinti che giocasse, quindi anche lì le notizie sono un po' confuse. Sì, mi rendo conto che sono un po' confuse. Infatti, però, non abbiamo ancora capito nulla di quello che realmente è successo a Cristiano Ronaldo. Però, partiamo un attimo indietro. Ronaldo si è fatto male perché voleva giocare tutti i santi minuti della Liga. E allora dai, però. Cioè, si è fatto male facendo una rovesciata volante al 90esimo contro Villarreal, una partita che era su 3-0. Ma per favore. Non mi sento di dargli torto, però, posso? No. Perché i grandi campioni sono così. I grandi campioni sono quelli. Guarda Totti che fa. Che vuole rimanere sopportato alla Roma è qualcosa per la quale non mi do pace. I grandi campioni sono così, vogliono giocarle tutte. Sì, però voglio dire, già 2 anni fa, quando sono arrivati in finale e hanno vinto la decima, Ronaldo veramente non ha giocato quella finale, cioè l'ha giocata, ma era veramente patetico, era in condizioni pietose. Cioè, devi anche capire quando magari ogni tanto ti fermi una partita. Cioè, quando sei sul 10-2 con Radio Vallecano, ma il problema è se tu hai è il signor Mourinho che ti dice: guarda, Cristiano, meglio che non giochi, esatto. Magari gli dai retta. Se tu hai Rafa Benitez, gli ridi in faccia. Se tu hai Zidane, gli dici: fai bravo, Zizou, non rompermi le palle. Esatto. Guarda, che io la gioco. Così va. Così perché Zidane questo ha detto in sala stampa, è venuto, lui è stato molto onesto, ha detto sì, io l'avrei cambiato, però non può uscire. Voglio dire, Ronaldo c'ha 31 anni, cioè, un quarto d'ora qui, un 10 minuti là, io me li sarei presi. Lui la pensa diversamente, cioè, capito? Non so quello che vuoi dire tu, ed è vero che anche Messi è lo stesso, quindi i due vivono uno per l'altro, no? Certo, fanno le stesse cose. Però insomma, alla fine rischia di pagarlo carissimo. Allora, senti, parliamo insieme con Daniele dalla provincia di Ferrara, che è un ascoltatore. 800 24 00 24, numero verde. Intanto il messaggio, ma dai, ma era uno scherzo, ragazzi, non fate sempre i permalosi. 40 ladroni in Milan ce li ha già. Certo, Carlo, che potresti evitare di leggere quei messaggi del cazzo, scrive Christian. 40 ladroni, 1000 rosiconi, forza Juve, Giampaolo. Ragazzi, ma trattate tranquilli, ma è solo that's a joke, su, l'avete capito anche voi, no? Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. State rilassati, fatevi due risate, volevo dire una cosa. È da qualche tempo che su Radio 24 lo ascolto sempre, va in mondo un ritornello di questo tipo qui, cioè mangiarsi le unghie da parte della Juventus perché è andata fuori adesso pensando alle squadre che sono rimaste, oppure che il tipo di gioco che esprimono. Sì, è tutto giusto, tutto bello, però se vogliamo analizzare la Juventus, comunque la Juventus ha giocato un mare di finali, ha vinto all'esercito. Sì, però non andiamo, campo, Daniele, non andiamo alla preistoria, rimaniamo alla cronaca all'attualità. So bene che la Juventus non ha nel DNA questa coppa, però io continuo a pensare che più partite vedo di Champions League, maggiore debba essere il rimpianto della Juventus per questa Champions League, non per quella che ha perso con il gol di Magath, o per quella che ha perso prima ancora o dopo con Real Madrid di Mijatovic, eccetera. Io sto parlando di questa squadra e delle contendenti che vedo ora in campo, ed è per quello che dico, vista la prima, City, Real Madrid, stasera vediamo la seconda con il pullman davanti alla porta, ebbene, secondo me la Juventus in questo contesto ci stava. Solo questo dico, Filippo. Giustamente, ma è chiaro, ma lì è il peccato capitale, è quello di Siviglia. Cioè, la Juventus ha battuto 2 volte il City, è una squadretta, cioè, per me, non è piena di difetti, con poca qualità, non lo so, insomma, sì, i rimpianti ci devono essere, ci sono e sono enormi. Io quella sera c'ero a Siviglia, è stata una sciagura. E poi attenzione, è arrivata a un minuto dalla qualificazione col Bayern. Certo. Due, quanti erano? Nel finale di partita. Era lì, mancavano due minuti. Per cui sì, i rimpianti è giusto che ci siano e devono essere anche belli grossi, perché comunque all'Italia, al Movimento E, faceva comodo. Abbiamo una Juventus che domina in Serie A e mi piacerebbe vederla dominare o vincere in Europa. L'anno scorso aveva fatto un miracolo, quest'anno già meno, perché insomma comunque è arrivato in finale, non è per caso, e doveva essere qua, purtroppo davanti alla televisione con il calice in mano a prendere giustamente lo scudetto. Senti, un'ultima cosa, al volo, dopo la partita di questa sera avremo ancora una semifinale di ritorno oppure no? Sì, sicuramente no, stasera resta aperta, per me resta aperta. Resta aperta, non ho dubbi. Insomma, non sfondano l'autobus a pallonate, tu dici? Non sfondano il pullman a pallonate? No. Poi io questo Bayern insomma è sempre una macchina, ma un pochino meno, la vedo un pochino più pesante del solito. Poi magari mi sbaglio, stasera vediamo. Non vedo l'ora che cominci la partita, però secondo me ci sarà una semifinale di ritorno, assolutamente. Grazie Phil, alla prossima. A voi, ciao Filippo Maria Ricci, ciao. Ci fermiamo per la borsa, torniamo 800 24 00 24, ma avremo un ospite con cui spero ci facciamo quattro risate perché ne abbiamo bisogno, e poi Marco Bellinazzo che invece ci dirà tutto su Alibaba, Whampoa in Milan, questo accordo che sembrava da alcune fonti di stampa fosse addirittura d'arrivo, invece al solito non è così. Ma vi raccontiamo tutto tra poco. Fatevi due risate, li vedete tutti seri. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Io dico solo che paghiamo i musicisti, come si dice? Cosa? I musicisti? I musicisti alla fine del bal. E questo, diciamo questo. E poi, adesso, ci sta. Abbiamo pagato la Juve, che la Juve ha vinto. E così, non voglio parlare di... All'inizio eravamo niente e oggi ancora siamo niente, però abbiamo vinto. Grazie mille a tutti. Questo Paul Pogba con pochissima voce per essere un musicista che viene pagato alla fine del ballo, secondo questa bella immagine che aveva già usato in precedenza, adesso dice Juve, fuori il grano, cacciate il grano perché i musicisti hanno suonato bene. Paolo da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo condividere con lei una mia curiosità, un ricordo. Sì. Io ricordo in occasione... quando Ranieri fu chiamato ad allenare l'Inter, ricordo una vostra puntata in cui lei esprimeva una bassissima considerazione di Ranieri, definendolo un bel cameriere, un maggiordomo, un eterno secondo, un allineato. Eterno secondo sì, cameriere e maggiordomo no. Cameriere e maggiordomo ho la registrazione perché mi era rimasto ben impresso, quindi se vuole la condividiamo insieme. Però sì. Lei sicuramente ricorda una sua bassa considerazione di Ranieri come allenatore. Volevo sapere se... Allora, Ranieri, poi... non ho cambiato idea, Ranieri è una... È una splendida persona, un allenatore molto bravo che ha avuto alti e bassi nella sua carriera. Non lo prenderei mai per vincere la Champions League, non lo prenderei mai per vincere un titolo. Lo prenderei per una squadra da cui si deve tirare fuori il 110% di quello che ha. Poi eterno piazzato sì, ha avuto diverse occasioni per vincere e non lo ha mai fatto anche con squadre di rilievo. Dunque mi sembra tutto abbastanza... corretto, in linea con quello che ho detto. Poi sinceramente maggiordomo cameriere non lo ricordo, ma bisogna vedere in quale contesto. Quello che penso di Ranieri prima lo penso anche oggi, che sta per vincere la Premier League e sono pronto a mettere la bandiera dell'Ester fuori dalla finestra. David Pratelli, buongiorno, volto e voce notissima, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Mi hanno detto che ho dato del cameriere sentito a Ranieri, uno peraltro dei tuoi cavalli di battaglia, sì Ranieri. No, devo dire che sono molto contento per il mister, perché se lo merita di vincere questa Premier League. Sì. E devo dire, insomma, sono sempre stato uno di quei juventini che lo ha sempre difeso, tra l'altro, perché per la Juventus, per come era nel dopo Calciopoli, che era ritornata in Serie A, era l'allenatore giusto nel momento giusto per ricostruire, come giustamente hai detto tu poco fa, per ricostruire una squadra, per portarla ai livelli che compete. E soltanto che poi è stato mandato via in malo modo, per colpe secondo me non sue, e tant'è che poi dopo i due anni successivi hanno dimostrato che... Sì, ha avuto alti bassi, nazionale greca, però comunque uno che ha allenatore fortunato, perché una panchina la trova sempre. No, ma Ranieri è sicuramente un competente di calcio ed è un allenatore che dove è andato ha una grande esperienza internazionale, ha vinto anche una Coppa di Lega col Valencia. Nel Chelsea non aveva avuto dei buoni trascorsi con Abramovic, però sai, sono quegli allenatori, no? Che tutte le volte, un po' che succede anche un po' anche a noi dello spettacolo, che tutte le volte vengono chiamati per ricostruire o per fare delle cose un po' così di transizione. Poi però quando decidono di vincere e prendere fior di giocatori, chiamano allenatori vincenti. Vedi al Chelsea, quando il Chelsea ha deciso di fare uno squadrone per vincere il campionato, Champions League e così via, ha cominciato a comprare tanti giocatori, hanno chiamato Mourinho. Certo, questo un po' è successo, tra l'altro, non soltanto a Ranieri, è successo un po' anche alla Juve con Ancelotti, che quando aveva Ancelotti la Juventus vennero presi giocatori come Paramatti, Zanchi, O'Neill e così via. Poi tornò Lippi e arrivarono Buffon, Thuram, Nedved, Salas, insomma, arrivavano tutti questi giocatori. Quindi bisogna sempre, secondo me un allenatore bisogna sempre metterlo un po' alla prova, te lo dimostra Allegri, bisogna sempre metterlo alla prova con dei grandi giocatori e capire fino a dove può arrivare. Senti, come ti viene l'imitazione di Allegri? Ma credo che devo dire sono molto contento di essere allenatore della Juventus e devo dire fa molto piacere. Io quando mi sono presentato a Vinovo ha tirato i sassi e le uova. Però sono stato chiaro, io mi sono presentato davanti a Marotta e gli ho detto: io mi chiamo Massimiliano Allegri, sono di Livorno, sono nato sugli scogli e per cui sono uno scoglionato, quindi la voce di Dio. E Ibra cosa gli avrebbe risposto? Ma lascia stare, mister, io ho stato bene con Allegri, lui penso che devo sputare. Io penso che uno come Allegri, io grande allenatore, io ho stato bene con lui a Milan. Sono stato talmente bene che poi a fine stagione sono andato via. Senti, cosa rispondi invece con la tua voce a tutti quelli che dopo ogni scudetto della Juventus riempiono borse, sacchi e valigie di dietrologia, dicendo che da Maradona in giù, è del tipo che c'hai bravissimi giocatori a palazzo, che nel momento buono arriva sempre l'aiutino, che quando serve l'arbitro che amico arriva. Allora, intanto questi 5 scudetti la Juventus li ha vinti perché la Juventus era più forte, cioè questo è fuori discussione, a parte il primo che poteva essere più forte il Milan, quello con Conte, la Juventus è riuscita comunque a crederci fino in fondo e ha vinto meritatamente lo scudetto. La Juventus ha vinto questi 5 scudetti perché in Italia è la più forte. Quest'anno come fanno a parlare di aiuti arbitrali quando la Juventus era 20 punti dietro, 15-20 punti dietro da Napoli, Fiorentina, Inter e così via. E piuttosto si chiedono quelle squadre, quelle società che si lamentano degli arbitri, perché c'è questo gap così grande tra loro e la Juventus, perché non fanno niente per cercare di contendersi lo scudetto fino all'ultima giornata contro questa Juventus stratosferica. Insomma, quindi non si può parlare di aiuti arbitrali, anche quando il Napoli si è lamentato, anche addirittura delle partite giocate in anticipo, posticipo, cioè sono appigli per giustificare le proprie sconfitte, per giustificare che, le proprie mancanze. Come io ho detto molte volte, non fanno bene a un processo di crescita, ma su questo sono d'accordo anche molti napoletani. La Juventus insegna, noi, vedi, io quando è successo anche dell'eliminazione di Champions League, molti juventini si lamentavano dell'arbitraggio. Va bene, d'accordo, noi abbiamo perso tante finali per decisioni arbitrali discutibili, ma non dobbiamo cadere nel tranello della polemica. Perché se tu sei poi più forte e il campo te lo dimostra, ti può andare male una volta, due volte, però poi se sei più forte alla lunga vinci sempre. Quest'anno c'è stata la grande occasione da parte delle squadre italiane per poter vincere lo scudetto, e parlo di Inter, di Napoli, della stessa Roma, la Fiorentina, che comunque la Fiorentina era stata anche la sorpresa del campionato, e hanno fatto in modo in maniera che la Juventus recuperasse, perché la Juve è più forte vincendo tutte le partite, e questi hanno cominciato a perdere terreno. Certo. Quindi se ci fosse stata una squadra che era almeno a livello della Juventus, ma oggi si parlava di... Ma guarda, il Napoli duello, secondo me rimane una stagione straordinaria, quella del Napoli, che comunque non voglio stare a parlare di budget, fatturati, queste cose qui, però il Napoli rimane comunque una squadra che per quello che ha attualmente ha fatto una stagione meravigliosa. Se poi la Juventus ti infila 24 vittorie su 25, allora che vuoi fare? David, grazie! No, ma figurati, forza Juve sempre, grazie a tutti voi, e speriamo di vincere la Champions. rimane quella. Ciao. Allora, traffico, poi ecco già lì Belinazzo che vi dice tutto su Alibaba, su Whampoa, sulla cessione del Milan e su tutte queste notizie che state leggendo in questi minuti. Tutti convocati. Tutti convocati che stavano aspettando Beninazzo al Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio. Vorrei alimentare troppe aspettative, però, perché poi... Vogliamo sapere che sta succedendo, perché questa mattina alcune fonti, come ben sai, su tutte Repubblica, dava per fatto l'accordo tra il Milan e Alibaba. Poi cosa è successo? Beh, guarda, che ci sia, raccontiamo da giorni, una trattativa aperta e in una fase decisiva, è assolutamente vero, nel senso che l'offerta dal gruppo di investitori cinesi è stata formulata per la maggioranza del Milan, e il tassello che manca, a parte una serie di questioni legate proprio, insomma, agli aspetti relativi al prezzo, alle percentuali, insomma, ma in qualche modo anche di dettaglio, è quello della volontà di Silvio Berlusconi di cedere la maggioranza del Milan. E siamo sempre lì, giriamo sempre intorno allo stesso, assolutamente, punto. Assolutamente, è quello il punto. Ma è successo qualcosa di nuovo per far uscire queste indiscrezioni? Guarda, che mi risulti, è successo qualcosa che è, diciamo, relativamente poco significativo, nel senso che sono sorte nelle scorse settimane alcune complicazioni, ma ripeto, di tipo assolutamente normale in una trattativa, se vuoi, sul prezzo, sulle percentuali, sul periodo eventualmente concesso poi al compratore per acquisire l'intero pacchetto azionario, sulla governance, sul ruolo che per esempio potrebbe o dovrebbe avere Barbara Berlusconi, questioni che sono fondamentali nel momento in cui non si vuole vendere, quindi diventano ostacoli. Certo, certo. Questioni che si risolvono se quel nodo gordiano, che è la volontà di Silvio Berlusconi di cedere o meno, viene tagliato. La Fininvest credo che non abbia più dubbi, semmai ne abbia mai avuti, soprattutto dopo la cessione di Mediaset Premium a Vivendi, cioè si ritiene non più strategico il mondo del calcio, quindi si vuole uscire, deve accettare questa situazione Silvio Berlusconi e decidere di uscire nella maniera che gli sia in qualche modo più gradita, nonostante un clima che sul campo... Tanto mi pare, Marco, che l'unica cosa che sia realmente uscita è stata la solita smentita in ciclostile degli uffici della Fininvest, no? Ma guarda, sì, la Fininvest, insomma, ci raccontano che appunto c'è grandissima riservatezza sull'identità dei soggetti, perché si vuole evitare, o si vorrebbe evitare, le trappole di una trattativa mediatica come è stata quella con Mr. B, e quindi c'è grandissima riservatezza su questo punto, per cui verranno resi noti gli acquirenti e soggetti interessati nel momento in cui ci sarà il via libera all'accordo. Di conseguenza ora c'è quasi un gioco ad impiattino sui nomi, sul possibile identikit dell'imprenditore o degli imprenditori coinvolti nella trattativa. Si è parlato di Jack Ma, di Alibaba, il colosso dell'e-commerce, che ha tanti interessi nel calcio perché è coproprietario del Guangzhou. E si è parlato per l'appunto di un nuovo Lippi, che porterebbe Marcello Lippi come direttore tecnico, ma anche questa non è nuova. È la terza o la quarta volta, insomma, che viene fuori il nome di Alibaba. Alibaba è uno dei soggetti che più sta aiutando il governo cinese, insieme al Suning, che è interessato all'Inter, insieme a Wanda, insieme a un altro soggetto che si chiama China Media Capital, che ha comprato il 13% del Football City Group. Sono quei grandi gruppi, quelle big company, che stanno, diciamo, assecondando il presidente cinese Xi nel suo progetto di rivoluzionare il mondo del calcio e di affermare la supremazia cinese. E quindi non mi meraviglia che questi nomi escano, vengano accostati al Milan, visto che la frontiera, la trincea, mi verrebbe da dire, in questo momento aperta è quella italiana e quella milanese in particolare. Sì. Però ecco, diciamo, se vogliamo fermarci ai dati certi, sono l'offerta c'è per la maggioranza, parliamo di 600-700 milioni e quota parte dei debiti. Fininvest vuole vendere, Silvio Berlusconi deve decidere. I cinesi vorrebbero chiudere da qui alla fine della stagione per poter impostare la prossima. Quindi è un momento delicato, ma la svolta, ecco, alla svolta deve ancora avvenire, ed è quella di un sì o di un no, come all'altare. Poi l'altro nome, quello di Whampoa? Ah, c'è insomma Whampoa, altro gruppo che per esempio in Italia in questo momento sta gestendo la fusione tra Tre e Wind, quindi un colosso delle telecomunicazioni. La proprietà è anche qui tra i gruppi, diciamo, tra i gruppi industriali nel settore delle comunicazioni più importanti, più rilevanti a livello globale, insomma, dove si casca bene da questo punto di vista. Cioè parliamo di gruppi con grandissima liquidità, anche qui non ci sono conferme. Si era parlato nei mesi scorsi di Huawei, di Huawei, insomma tanti nomi ai quali dovremmo fare l'abitudine se frequentiamo il mondo del calcio, ma in questo momento non sappiamo con certezza chi sia, per cui diciamo il toto nomi si fa, prima o poi qualcuno beccherà quello giusto, ma al momento diciamo non ci sono riscontri, insomma per me non ne ho trovati, né giungono dagli ambienti vicini alla trattativa. Sì, per chiudere invece l'Inter, a che punto siamo? Perché prima Simone Spezia mi ha chiesto, ma c'è più probabilità a tradimento, me l'ha chiesto, perché che vuoi che gli risponda, sei tu l'esperto, mi ha chiesto, ma c'è più probabilità che venga chiuso l'affare Alibaba Milan o che vada in porto comunque la questione Inter? Io credo che siano, a questo punto, se dovessimo votare percentuali, più o meno pari. Peraltro appunto c'è la ferma volontà di Toi di tenere per un certo periodo la maggioranza. Suning, come sai, ha messo addirittura un comunicato, cosa è tutta anomala vista le trattative che di solito fanno i cinesi, confermando il proprio interesse, e quindi anche lì dovrà essere scritta a breve, insomma, una pagina importante per il futuro dell'Inter, perché anche lì c'è lo stesso timing, cioè entro fine stagione arrivare alla conclusione per poter concordare il tutto. Certo. Bisognerà capire, ed è lo snodo fondamentale, cosa vorrà fare Massimo Moratti. Quello che mi risulta, Massimo Moratti vuole comunque uscire dall'Inter, e a questo punto bisognerà capire chi e come cede le quote al Suning, perché a novembre scade un patto, diciamo, tra i due attuali soci, per cui Moratti può cedere le sue quote a Toir. Sì. Evidentemente, per esempio, una delle opzioni potrebbe essere quella per cui sarebbe Suning a prendersi l'incarico, a rilevare le quote di Moratti. Di Moratti a novembre, insomma. Si sta discutendo anche di questo, però c'è la volontà di tutti, ecco, di arrivare a un accordo, per cui diciamo in qualche modo le percentuali sono analoghe per quanto riguarda, diciamo, le due trattative, anche se i scenari sono diversi rispetto, appunto, a questi azionari, per cui questi affari poi andranno in porto. Questo è chiaro. Possiamo però dire che Milano non è ancora capitale della Cina del pallone, almeno, diciamo, per il momento, che, poi vediamo. Che i cinesi sono alle frontiere per il momento. Sono alle frontiere, oppure sono asserragliati nei migliori alberghi milanesi, come vediamo tutti i giorni, tra lussuose limousine e abiti firmati. Grazie Marco, alla prossima. Grazie, ciao Carlo. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Prego, un minuto. Mi unisco ai complimenti alla Juve, ai Peana per Allegri, però da tifoso del Milan a questo punto faccio, come dire, anche un po' di dietrologia, ricordando che Allegri, se adesso ha imparato tantissimo, ha imparato a Milano, e soprattutto sugli errori che ha fatto a Milano, è stato l'unico allenatore a non vincere uno scudetto con Ibrahimovic in squadra, è stato colui che ha smembrato praticamente la vecchia guardia senza riuscire a ricostruirlo, è stato colui che ha venduto Pirlo, non l'ha venduto esattamente lui sul centrocampo muscolare che loro volevano, che lui ha voluto a tutti i costi, e quindi adesso viva Allegri, bravo Allegri, ma ha imparato sugli errori e i grandi errori che ha fatto a Milano. Mi sembra che Allegri abbia, se vogliamo, a Milano toppato solo la stagione che lei ha ricordato, cioè l'unica in cui Ibra in carriera non ha vinto lo scudetto, perché era onestamente in quell'anno la squadra più forte. L'anno successivo il Milan, un Milan ridotto ai minimi termini, non ai minimi termini, ma ridotto certamente come forza, e non soltanto per colpa di Allegri. In quella stagione il Milan, secondo me, fece molto bene, dopo lo scudetto e il secondo posto. Allora, adesso ci fermiamo per il giornale radio, poi dovremo avere il nostro ospite Danilo Di Luca, che ha scritto un libro pazzesco sul ciclismo e il doping. A dopo. Finisce qua, senza recupero il primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Che dire, arrieccici. Convocati. Danilo Di Luca non vuole aspettare la volata. Grande Danilo, è sua. Ormai all'ultima curva Danilo Di Luca ha lasciato la compagnia di Frank Schleck, sta rimontando Alejandro Valverde, ultima curva per Danilo Di Luca, è stremato anche il corridore murciano, poi c'è Paolo Bettini dietro che prova a recuperare Di Luca, ormai a 100 metri dal traguardo, il killer di Spoltore si volta e la Liegi è sua, Danilo Di Luca. Allora, questa Liegi Bassano Liegi 2007, però io voglio vendervi un ricordo personale, regalarvi ovviamente, un ricordo personale. Giro d'Italia del 2000, Giro d'Italia del Giubileo, il mio primo come inviato di Radio 24. Partenza da Roma, ovviamente, un grande albergo alle porte della capitale, in quello stesso albergo c'era Marco Pantani, che io con sgomento vedevo la mattina scendere a fare colazione con un cappellino beige in testa, con lo sponsor Mercatone 1, sedersi a un tavolo da solo e parlare con se stesso. Questa è la prima immagine che mi porto di Marco Pantani. Poi in quello stesso giro, qualche giorno dopo, tappa Matera Peschici. Vedi questo ragazzino biondo di cui si parlava benissimo, si chiama Danilo Di Luca, fare una cosa meravigliosa sull'arrivo difficile di Peschici. Sportivamente mi innamorai di lui. Oggi leggo le anticipazioni di Best da Vittoria, che ha scritto, che uscirà martedì, e voglio chiederglielo in faccia. Danilo, quel giorno fu vera? Vera. Tutte le vittorie sono vere quando si fa parte di uno sport di vertice e si fa parte e si è dentro un sistema, quindi tutte le vittorie sono vere, così come è vera quella di Peschici. Saluto anche Pier Augusto Stagi, ciao Pier, nostro abituale compagno di viaggio in ciao bicicletta. Ciao Carlo, ciao Danilo. Ciao, ciao. Ciao Pier. Senti, racconti tutta la verità in questo libro. tutto quanto. Non c'è niente di segreto, non c'è più niente che deve essere occultato. Però io ti voglio chiedere anche come si riesce. Io capisco tutto, capisco le pressioni dello sport di vertice, capisco anche certi discorsi che tu fai quando fai sto mestiere, o ti comporti come tutti gli altri oppure scendi dalla bicicletta e te ne torni a casa, che sono logiche perverse ma che io riesco a comprendere non solo nel ciclismo ma anche in altri sport. Poi possiamo fare anche altri discorsi e libererò una farfalla nera che mi gira nel cervello. Come fai quando ti sei stato beccato a presentarti davanti a 1000 telecronaca e dire no, aspetto le controanalisi, non ho fatto niente? Perché sei un ciclista professionista, sei uno sportivo, come ho detto, di vertice, e quindi il sistema è così e tu ti adegui a quello che sei e che devi essere in quel momento. Nessuno al mio posto avrebbe scritto un libro, il libro che ho scritto io, essendo ancora un ciclista in attività, o un ex ciclista che fa parte ancora del mondo ciclismo. Io l'ho potuto fare perché non avendo più niente da perdere, perché non ho più nulla da perdere, sono tagliato, e quindi ho potuto dire tutta la verità. E questo è molto onesto. Io mi domando se un giorno vedremo qualcuno sull'apice, sull'Olimpo, in grado di far saltare il banco dicendo è vero, l'ho fatto e lo fanno tutti gli altri, ma mentre ancora appunto in cima all'Olimpo. Stagi, cosa vuoi chiedere a Di Luca? Non ho capito, scusa Carlo. Cosa vuoi chiedere a Danilo? Ma intanto molto banalmente, come sta? Bene, molto bene, grazie. Poi un'altra cosa volevo chiedergli, premesso che anch'io, lo sa Danilo, l'ho seguito fin dalle categorie giovanili, quindi ho proprio seguito da Under 23 le sue imprese, ha sempre corso molto forte, e una delle cose che ritornano nel suo libro, anche ieri l'ha ripetuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del suo libro, ha detto: un campione comunque in ogni caso, doping o non doping, vince sempre. Allora, domanda molto banale, da veramente da persona della strada, da tifoso che vuole ancora credere nello sport, perché qua bisogna anche capirsi, ed è una seconda domanda che faccio a Danilo, quindi due. Una, che bisogno c'è di doparsi? Tanto Danilo Di Luca è sempre andato forte, io l'ho sempre visto andare molto forte, fin da quando disputava i Giri d'Italia dilettanti, che all'epoca si chiamavano appunto Ciro Baby. E l'altra domanda è: dobbiamo credere ancora in tutto lo sport professionistico? È un problema solo del ciclismo o ormai è veramente il male di tutto lo sport professionistico totale, visto che tu probabilmente a questo punto hai in mano anche molti dati, molti elementi per poter dire come funziona il grande circo del mondo sportivo professionistico? Ma inizio dalla seconda domanda. Io parlo per quanto riguarda il mio sport, per il ciclismo, perché sono stato un ciclista, ma credo, come ho detto, che lo sport di vertice sia tutto uguale. Credo anche che ieri in conferenza stampa, mentre presentavamo il libro, mi hanno fatto una domanda: ma allora se tutti si dopano, perché non bisogna più credere nello sport? Se siete comunque tutti uguali. Il doping è una componente dello sport e dell'attività che poi va a fare un atleta. Ci sono tante componenti: il sacrificio, gli allenamenti, il rinunciare una serata in discoteca, non mangiare determinate cose. Questo il pubblico credo che non lo sappia, ma essere un atleta e avere una vita regolare e piena di sacrifici per tutto l'anno. Poi c'è anche il doping. Il doping aumenta la prestazione del 5-7%. Non aumenta la prestazione al 20 o al 30%. Quindi, come hai detto anche tu, alla fine vince sempre il campione. Quindi ci crediamo ancora, secondo te? Ma io ci ho sempre creduto da quando ero bambino. Poi sono stato in mezzo allo sport di vertice e ho visto come funzionava, ma ho sempre creduto di aver vinto le mie gare, perché me le sono meritate, sudate, e ci sono arrivato col tempo e con gli anni. Ho sempre vinto da quando ero bambino. Sicuramente da bambino non sapevo neanche cosa fosse il doping o che cosa mi potesse aspettare poi una volta che sarei diventato professionista. Quindi tutte le vittorie sono vere. Anche Marco Pantani ha sempre vinto anche da bambino. Ma Marco Pantani, secondo me, io ne parlo tanto nel libro, ne parlo bene, perché io l'ho sempre apprezzato come atleta e anche come uomo. Io in piccola parte ho vissuto quello che ha vissuto lui, la differenza è che forse il mio carattere rispetto al suo era più forte, lui aveva un carattere più fragile, purtroppo oggi non è più tra noi. E Marco Pantani era il più forte scalatore di tutti i tempi, quindi Marco Pantani a parità con gli altri era sempre Marco Pantani, era sempre il più forte di tutti. Senti Danilo, voglio essere perverso, consentimelo, mi spieghi come funziona, come si prende il doping, ad esempio ad un Giro d'Italia, come, quante volte, in quali occasioni? Qualcuno dice c'è chi lo prende solo magari per la cronometro finale quando è in maglia rosa, c'è chi dice no, è un uso continuo, scientifico e ponderato. Come ci si dopa per correre un Giro d'Italia? Ma chi dice che lo prende solo l'ultimo giorno, secondo me mente. Il doping per un Giro d'Italia, per una corsa di un giorno, è differente, perché la corsa di un giorno è un giorno, quindi magari tra virgolette te la puoi cavare anche in una giornata. In una gara a tappe di 21 giorni devi essere anche costante, e quindi si dopa anche giorno per giorno. Poi dipende, perché comunque non tutti i corridori che partecipano al Giro d'Italia hanno gli stessi obiettivi. Certo. Quindi c'è anche chi non si dopa. Certo. Arrivo a quella farfalla nera che mi gira nel cervello. A questo punto sappiamo come funzionano le cose, se vogliamo facciamo finta di credere a Biancaneve, ai sette nani, a tutte le favole del mondo. Tu saresti favorevole ad una liberalizzazione del doping per gli sport professionistici? Anche in America fanno così, lo sappiamo benissimo. Io ricordo di aver letto prima delle Olimpiadi di Pechino una lunga inchiesta su Repubblica in cui venivano intervistati in maniera anonima sportivi di altissimo livello, e tutti dicevano: mi dopo perché voglio vincere, perché la vera umiliazione è la sconfitta, e se devo fare questo per gareggiare e per vincere io lo faccio. Allora a questo punto la domanda è: arriviamo ad una liberalizzazione controllata, perché gli atleti professionisti sono sottoposti comunque ad un regime medico di controllo, di regolamentazione, ovviamente molto superiore a quello dei comuni mortali che vanno a correre in bicicletta, che magari ci lasciano le penne. Tu saresti per arrivare a questo punto? Guarda, hai detto delle cose vere, ed è comunque difficile rispondere a una del genere, perché io sarei d'accordo per la liberazione, però poi c'è di mezzo la salute. Ed è la cosa più importante per tutti, sia per gli atleti e soprattutto per le persone che poi non fanno dello sport il proprio lavoro. Quindi noi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto negli anni 90, 97, 98 il limite al 50 dematocrito, altrimenti sarebbe andato a finire male per molti dei miei ex colleghi. Siamo stati anche fortunati magari ad avere il passaporto biologico, perché comunque siamo controllati, quindi potrei essere d'accordo con la liberalizzazione, però bisogna essere davvero controllati, quindi bisognerebbe studiare un modo, perché poi c'è sempre quello che esagera, no? E quello che esagera poi si fa male. Io sono stato sempre molto misurato nel mio doping tutta la mia carriera, e questo me ne rendevo conto e ne sono stato sempre consapevole, e quindi magari potrebbe essere un'altra soluzione quello di mettere i traccianti nelle sostanze, lì sarebbe molto, molto più semplice. da realizzare, cioè da concepirlo, ma non puoi realizzarlo. Quindi bisognerebbe studiarlo bene. Pier Augusto, ti lascio l'ultima domanda a Daniele Di Luca, se ne hai una. Ma intanto l'argomento della liberalizzazione è estremamente interessante e la butto lì solo per una riflessione che Danilo conosce molto bene, ma anche tu Carlo e moltissimi che seguono lo sport e il ciclismo in particolare. Il doping non è democratico per una questione molto semplice. Lance Armstrong ne è l'esempio. Addirittura le istituzioni l'hanno protetto, se non era per la giustizia ordinaria, sottolineo ordinaria, Armstrong era ancora lì a simbolo di ciclista più forte di ogni tempo. E quindi bisogna partire dagli atleti, ma soprattutto bisogna partire anche dalle organizzazioni, che credo che ad oggi, e ne sono convinto ancora oggi, anche nella vicenda Russia, c'è un gioco strumentale dell'uso dell'antidoping per questioni politiche. Cioè io tiro fuori il doping, ti prendo con la mano nella marmellata quando voglio e se voglio, per ricattarti sostanzialmente. Chiuso questa parentesi, chiedo semplicemente a Danilo Feroci. Chiuso questa parentesi, non mi sembra una cosa da poco, questa parentesi qui. Però credo che sia anche importante, perché qui parliamo e dopo ci domandiamo come mai tutto d'un tratto lo sport russo è sotto accusa. La Russia ha sempre fatto questo negli ultimi anni, come molte nazioni. Anche noi abbiamo avuto il doping di Stato. Noi facciamo fatica a dirlo, ma abbiamo avuto il doping di Stato. Il caso Schwarzer non è una barzelletta. Certo. Mi sembra evidente che sia doping di Stato. Quindi o ne parliamo liberamente e serenamente o non parliamo. Oppure lo liberalizziamo, come hai detto tu. E quindi ogni atleta risponderà al proprio medico referente. Probabilmente si avvaleva di un consulente importante e si fidava di lui. Bene, ognuno ne risponderà col proprio professionista, sì, che avrà il fianco. E allora voglio la risposta... dimmi. No, volevo la risposta da Danilo Di Luca, è vero? Quanto ha detto Stagi? Cioè, il ricatto della politica sportiva esiste? Ma esiste sicuramente. Esiste, io non per quanto riguarda Schwarzer, che non so le dinamiche, ma comunque nel mio libro parlo delle mie esperienze che ho avuto anch'io sotto questo punto di vista. Quindi certo che esiste. Certo che il CONI ha dei suoi introiti, è certo che il doping comunque è un business e quindi c'è un suo introito. È anche vero che Lance Armstrong ha vinto 7 Tour di fila perché, come ha detto anche lui, aveva un sistema forte attorno, ma è anche vero che Lance Armstrong è un campione e magari non ne avrebbe vinte 7 di fila, ma 3-4 sicuramente di Tour de France, quindi è sempre Lance Armstrong. Questo è che la gente fa fatica a capire, perché associa il doping alla vittoria, invece non è così. Grazie Danilo. Grazie Danilo, grazie in bocca a voi. Grazie Danilo Di Luca. E leggerete tutto Bestia da Vittoria, in uscita martedì, uscito ieri peraltro. Pier Augusto Stagi, grazie, alla prossima. Grazie a te Carlo, buon ciao, pomeriggio a tutti. Ciao, grazie Pier Augusto Stagi. Ragazzi, sono cose che o facciamo finta di niente oppure ne parliamo, e se ne parliamo facciamolo tirando via la maschera e senza fare gli indignati, io direi. Matteo Treviso, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Senta, io non sono indignato, però voglio essere anche un po' realista. Sì. Lasciamo stare i ricatti della politica sportiva, eccetera, però il valore vero dello sport è quello di eccellere, perché uno ha dei talenti, ha delle attitudini particolari, o perché è meglio rispetto a un altro sulla tale competizione, è lo spirito della competizione. È chiaro che se io ho degli aiuti vado ad eccellere. E poi un'altra cosa, quindi falso un po' quello che potrebbe essere meglio di un altro. Se, mi sembra di aver capito che un po' tutti facevano uso o fanno uso di doping, ma allora lancio una provocazione: se non lo usano tutti, se non lo usa più nessuno, e se lo usano, Matteo, se lo usano in tre? Ok. Se lo usano in cinque? Però allora io dico, se lo usano in tre, perché devo usarlo anch'io? per poter, non posso denunciare questi tre. No, però non fai quello che stare lì, perché diventa una corsa ad armi impari. E io non sto difendendo nessuno, sto provando a guardare in faccia la realtà. Cioè, se lo usano in 3, in 5, in 7, bello dire, perché allora se non lo usa nessuno abbiamo un altro tipo di sport e siamo tutti più fiduciosi nei risultati sportivi, eccetera. Però se poi comincia a usarlo uno, poi comincia un altro, perché sennò perde dal primo, da quell'uno, e poi lo usa anche il numero 3, perché altrimenti perde dall'uno e dal 2, e magari sono atleti più deboli di lui. Vedi che da qui non ne usciamo, se non nella speranza. Io credo che l'antidoping abbia fatto, rispetto ai selvaggi anni 90, abbia fatto dei passi avanti pazzeschi, e questo certamente fa ben sperare. Io penso anche che questo mondo dello sport sia più pulito rispetto a quei pazzeschi anni 90 e anche agli anni 2000, naturalmente. Non credo però che sia totalmente lindo, non credo però sia totalmente pulito. E quindi con queste realtà noi dobbiamo fare i conti. O mettiamo la maschera e facciamo finta di niente e facciamo gli indignados, oppure ne parliamo. Alberto, buongiorno. Buongiorno e grazie della convocazione. Grazie a lei. Innanzitutto penso che i talenti, i campioni restino tali. Mi verrebbe da pensare ad esempio a uno come Federer, che non ce lo vedo proprio a dopparsi. Ma detto questo, volevo fare una considerazione che mi piacerebbe poteste commentare, e anche una provocazione. La considerazione è che di fatto il doping è già libero, perché doping è tutto quello che si decide che poi diventa doping, ma le sostanze, i tentativi della scienza di influire sulle capacità fisiche, penso che restino tali. Dopodiché a un certo punto qualcuno dice che quel limite lì non va più superato. E questa è la prima considerazione. Sì. La provocazione è: uscire dal sistema è impossibile. Chi dice dall'interno del sistema che il sistema non funziona, in genere viene tritato dal sistema, ma non vale solo nello sport. Sì. Polemicamente ci ha provato anche Craxi nel sistema politico, sì, infatti sì, sì. Fatto fuori. Allora io voglio rispondere a lei, ma anche a Marco di Ancona, che mi dice che sono incoerente, e magari ha pure ragione. Ma come dicevi, squalifica a vita, lo ripeto. Allora vogliamo davvero combattere il doping da questo punto di vista con pene draconiane, che io arrivo a sposare, attenzione, cioè preferisco quelle rispetto al doping liberalizzato, che comunque può essere un tema di discussione. Allora perché non dire, quando trovo con certezza un atleta per la prima volta dopato, allora quell'atleta non corre più, non sale più su una bicicletta, non va più su una pista atletica, non va più su un campo da rugby, non va più su un campo di pattinaggio, sul tartan, su quello che volete, non va più non gareggia più. Lo diciamo subito, ci mettiamo tutti d'accordo. E allora, a quel punto, il gioco non vale più la candela. Perché il gioco vale la candela se tu dici mi trovano positivo all'antidoping, quanto mi prendo? Ho l'ematocrito fuori norma, quanto mi prendo? 15 giorni di stop per la mia salute, come era alla fine degli anni 90, come era nel caso di Pantani e Madonna di Campiglio. E beh, allora mi conviene. Quanto mi prendo? Un anno di squalifica, me ne sto buono un anno e poi torno in gruppo e guadagno e continuo a guadagnare i miei soldi. Se invece ti dicono, ok, ti troviamo una volta, magari è stata una leggerezza, magari eri depresso, magari la fidanzata ti ha lasciato, magari la corsa era la corsa della tua vita e volevi vincere per la tua famiglia, non me ne frega niente, tu non corri più. Allora, quello sì potrebbe essere un serio deterrente contro il doping. Ragazzi, chiudiamo in bellezza, che la discussione è stata dura. In bellezza per molti, Ibrahimovic, i suoi compagni del Paris Saint-Germain, un po' meno per Martin Castrogiovanni, che è finito nei guai. Ho un'altra domanda. Dica. Gliela faranno in tanti. Caesar vuol dire Cesare. Sì, perché? Quel Cesare abitava qui? Ah, no. Ah, lo sospettavo. Porca troia! Oh, questa è Las Vegas! Mamma mia! E quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas. alla notte che non dimenticheremo mai. Che non dimenticheremo mai. Una notte da leoni, chi non l'ha visto questo film? C'è finito dentro, nella realtà, Martin Castrogiovanni, perché attualmente ancora pilone, giocatore del Racing di Parigi, ha dichiarato al suo club: ragazzi, ho un problema in Argentina, devo andare a casa perché ho un serio problema laggiù e quindi devo mollare il ritiro, non vengo con voi a Nottingham, dove era pure in programma una storica semifinale di Champions contro il Leicester, guarda un po', storie che ritornano. Ebbene, gli dicono: vabbè, Castro, vai, se c'è questo problema serio. Il problema è che probabilmente ha perso l'aereo per l'Argentina e ha preso quello per Las Vegas, dove è stato pizzicato a fare baldoria con quelli del Paris Saint-Germain, Ibrahimovic in testa. Ai ai ai ai, Castro. Grazie. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani. Ciao. Voglio buon pomeriggio a tutti.